È una rete assolutamente informale, nel senso che riunisce associazioni ma soprattutto persone, cittadini e non ancora cittadini, che ci auguriamo lo diventino presto. Ed è nata per commemorare un episodio poco conosciuto dai più, ma che secondo noi è rappresentativo di un periodo, ahimè, che dobbiamo metterci a ristudiare perché ha ancora forti conseguenze sul presente, e cioè il colonialismo. Yekatit è il nome del mese di febbraio in lingua etiope. Yekatit 12, che corrisponde al 19 febbraio, è la data del fallito attentato a Rodolfo Graziani, che era allora viceré etiopico, denominato il macellaio, tanto per sottolineare. Attentato fallito, ma che provocò la reazione dell'esercito italiano e delle squadracce fasciste. Nei tre giorni successivi si diedero a una caccia all'uomo degna dei ricordi peggiori. Le cifre, le stime non sono sicure, però si parla di 20.000 vittime. Le persone venivano assassinate per strada a colpi di macete, di coltello, incendiati le case, i villaggi. E questo era l'immagine della civiltà europea portata per salvare la barbarie africana. Noi vogliamo ricordare che cosa è stato attraverso Yekatit e tutta una serie di eventi, e il fatto che quella memoria è stata soffocata troppo presto. Ancora adesso, anzi nelle ultime linee guida sull'insegnamento della storia, si parla del colonialismo come dell'incontro dell'Europa con il resto del mondo. Incontro. Su questo c'è tutto il nostro essere degli struzzi, avere cancellato e rimosso quello che siamo stati, e che purtroppo riemerge nel contemporaneo, perché siamo ancora pienamente immersi nella colonia, come politiche, come atteggiamento, che non è mai morta. Insomma, la cosiddetta cooperazione internazionale era di fatto neocolonialismo. Adesso ci torniamo con gli eserciti o con i piani Mattei, ma più o meno, insomma, i mezzi si sono aggiornati, ma l'obiettivo rimane sempre quello. E riguardo, prima appunto diceva dell'insegnamento a scuola e poi sì, dell'insegnamento della storia, e poi si ricordava anche il forte attacco che stanno subendo le scuole in questo momento storico, e uno degli eventi appunto sarà indirizzato unicamente alle studentesse e gli studenti. Quindi che ruolo ha anche questa rete e questo recupero della memoria nei luoghi della formazione, che appunto oggi sono sotto forte attacco? Fondamentale, cioè, ci sarà il 18 questa proiezione cinematografica dedicata a un film documentario sul colonialismo, dedicata proprio alle scuole, riservata alle scuole, perché evidentemente bisogna cominciare da lì. Peraltro nel caso del colonialismo non si può neanche dire che ci sia una revisione dei programmi, non se n'è mai parlato, quindi partiamo proprio da zero. In più, addirittura, ricordavo prima questo termine dell'incontro, adesso c'è proprio un revisionismo vero e proprio in atto. Qui non si tratta, perché l'accusa perenne che viene fatta a chi solleva questi problemi è di essere dei fautori della cancel culture. Cancel culture, che in realtà vuol dire tutt'altro, significa semplicemente rimettere in discussione una versione della storia con la S maiuscola monocorda, considerata come oggettiva. Non esiste una sola storia, ne esistono tante, di diversi punti di vista, spesso in conflitto fra di loro, anzi quasi sempre in conflitto fra di loro, che è molto complicato pacificare e condividere. Io personalmente non credo alle favole della storia condivisa o della memoria condivisa. La storia rimane separata, le visioni della storia rimangono separate, cerchiamo di conoscerle, farle conoscere reciprocamente, a partire dalla scuola, che deve insegnare proprio questo, non una versione della storia rispetto a un'altra, ma che ne esistono tante. Deve insinuare il dubbio che niente che ci venga raccontato come monolitico è mai neutrale.